A bordo campo di Dario Ricci. Ci mancava solo questa. Beh, è una frase che, cari amici di A bordo campo, ben si attaglia, come potete immaginare, a molte situazioni del calcio nostrano. Ma in questo senso, questa frase, questa volta, visto l'argomento di cui parliamo, va intesa proprio nel suo significato letterale, perché ci mancava solo questa come competizione internazionale cui la UEFA ha dato il via libera e di cui vogliamo parlare oggi, perché chiaramente questa nuova competizione va a inserirsi in un calendario quanto mai saturo di impegni, soprattutto per i cosiddetti top player, e tra l'altro ha uno sviluppo davvero particolare. È la riflessione che mi è venuta in mente quando mi sono ritrovato in mano un interessante articolo della Gazzetta dello Sport che illustrava gli sviluppi di quella che dovrebbe essere, perché il nome ancora non si sa se è ufficiale o meno, fra poco lo chiederemo al nostro ospite, la Nations League, la nuova competizione europea per squadre nazionali che partirà dal 2018. E allora ne parliamo con quello che è l'autore di questo articoletto davvero sfizioso. Benvenuto a Fabio Licari della Gazzetta dello Sport. Buongiorno a voi. Allora Fabio, perché ti abbiamo chiamato qui da bordo campo? Perché questa Nations League si presenta come l'ennesimo impegno internazionale di alto profilo per le squadre nazionali europee e chiaramente presenta, oltre che uno sviluppo molto contorto che adesso proveremo a dipanare, anche parecchi spunti di interesse. Ecco, si dovrebbe partire con questa nuova competizione dopo i mondiali di Russia 2018, con una serie, praticamente una divisione delle 54 nazionali europee in quattro serie, no? Serie A, B, C e D, come fosse un vero e proprio campionato nazionale, vero? Sì, il tutto è un po' complicato. L'unica cosa certa posso dirti è che si chiamerà Nations League, cioè è stato approvato, il nome è quello, non dovrebbero esserci cambiamenti, benché da qui al 2018, oddio, tutto può succedere. Certo. Il resto invece è un po' più complicato e non so se riusciremo a spiegarlo pienamente in questa breve chiacchierata. Per essere più sintetici e dare un quadro generale, c'era bisogno, come sapete da adesso, le qualificazioni ai mondiali europei avranno una struttura tipo Champions, cioè così come i diritti televisivi sono venduti, della Champions sono venduti da un'agenzia centralizzata, così accadrà anche per le qualificazioni dei mondiali ed europei. La UEFA venderà i diritti di tutte queste partite per dare dei soldi alle federazioni e in cambio, da settembre ce ne accorgeremo, le qualificazioni si svolgeranno nell'arco di una settimana, praticamente da giovedì della settimana precedente al martedì della successiva, in orari fissi, cioè 18, 20 e 45, e con i programmi tipo Champions. Sentiremo la musichetta tipo Champions perché la sera ci saranno i trailer, ci sarà... Che goduria! Quindi sarà così. Questo cosa comporta però? Vado alla lontana ma perché voglio spiegare la situazione. Comporta che la UEFA ha bisogno di vendere delle partite, ha bisogno di vendere dei diritti per fare soldini e distribuire alle federazioni che hanno dato l'ok a questo progetto. Non bastavano le amichevoli, naturalmente. Allora, le qualificazioni sono una cosa, ma per aggiungere qualcosa alle qualificazioni, tenere le squadre impegnate ed evitare le amichevoli che oggi obiettivamente hanno il peso che hanno, e sappiamo tutti che l'amichevole viene giocata ogni tanto con la gamba sinistra, Platini ha creato questo torneo che si chiama Nations League. Che non è che aumenterà di tantissimo le partite, perché le partite alla fine sono quelle previste dal calendario internazionale. Aumenterà, credo, temo, spero, non so, questo è il verbo giusto, lo capiremo nel 2018, aumenterà il carico psicologico delle squadre, perché una cosa è giocare Italia Liechtenstein in amichevole, certo. Pareggiato prima del mondiale. Una cosa è un torneo nel quale perdere può significare retrocedere. Quindi siamo arrivati al concetto di torneo con quattro serie. Tra l'altro molto interessante questo primo elemento che sottolinei, perché entra di fatto nelle competizioni per squadre nazionali il concetto di retrocessione, perché ci sarà una Serie A con 12 nazionali e fortunatamente ad oggi ci siamo pure noi come Italia, ecco, insomma, speriamo di restarci, ma sarà anche facile retrocedere perché poi la B con 12 squadre, la C e la D con 16 squadre. con gironcini a tre o a quattro squadre. Nella Serie A saranno a tre squadre, quindi noi potremmo capitare appunto con altre due avversarie non di poco, di poco conto. Gare di andata e ritorno e l'ultima retrocede nella serie inferiore. Sì, ma era nuovo ma anche necessario, perché il torneo va snellito, cioè se noi negli anni dispari, perché si gioca negli anni dispari in sostanza, dobbiamo far giocare 54 squadre fra loro, certo ci vuole un criterio. Il criterio è quello di dividere le 54 nazionali europee in quattro serie, una serie A, serie B, serie C e serie D, con promozioni e retrocessioni. La serie A è naturalmente la migliore, quella in base al ranking UEFA per nazionali, le 12 migliori nazionali vengono iscritte alla serie A e via dicendo. La struttura è molto simile, le squadre di ogni serie vengono divise in gruppi, le 12 della serie A, tra cui l'Italia che è credo in questo momento al quarto posto del ranking per nazionali, vengono divise in quattro gruppi da tre e si giocano quindi sei partite in andata e ritorno tra settembre, ottobre e novembre, cioè alla fine del mondiale nel 2018, invece di cominciare le qualificazioni per l'europeo come accade, si giocano queste sei partite. Le qualificazioni cominceranno nel marzo successivo, nel marzo 2019, e proseguiranno normalmente fino alla fine dell'anno, ma intanto da questi gruppi saranno venute fuori quattro vincenti, diciamo, le quattro vincenti dei quattro gruppi, sì, le quali si affronteranno in una Final Four tipo basket. Ecco, che siano, ecco, Italia, Germania, Spagna, Inghilterra. Bella, bella idea. L'Inghilterra si offrirà di ospitare il torneo, tutti a Londra, tutti a Wembley, per dire, semifinali e finali in una settimana, 10 giorni, questo è ancora tutto da decidere, che chiaramente richiameranno pubblico, incassi, TV e tutto il resto, il senso è chiaro, però al di là del torneo che assegnerà una coppa, quindi ogni biennio, quindi nel 2019, nel 2021, nel 2023, quindi sarà un appuntamento costante, questo avrà anche un rapporto con le qualificazioni all'europeo. Ecco, adesso ci arriviamo, Fabio. Intanto però ti chiedevo, proprio questo concetto di Final Four mi sembra che sia un po' una platinitata, no? Nel senso che recupera nel solco di quello che ama fare Messier Platini anche quella che era la tradizione delle finali degli europei fino a un bel po' di edizioni fa, quando c'era un concentramento di fatto in una città, in una grande capitale, con le quattro protagoniste finali, no? È vero, è vero, è vero. D'altra parte un tempo l'europeo era a quattro finaliste, oggi siamo arrivati a 24, speriamo che non si aumenti più, perché sennò il prossimo passo sarà per un europeo continuativo, perché 24 su 54, capisci? Non c'è selezione, certo. Non c'è selezione, però adesso ci si può qualificare all'europeo anche con la Nations League, perché la vincitrice della Nations League di Serie A, in qualche modo, il criterio non è ancora definito al 100%, stanno studiando alla UEFA, dovrebbe andare di diritto alla fase finale, così come dovrebbe andare di diritto alla fase finale europeo successivo la vincitrice della Serie B, quella della Serie C e quella della Serie D, perché anche le quattro vincenti delle serie minori si affronteranno tra loro in partitine meno importanti, ma meno importanti magari per noi della Serie A che le guardiamo dall'alto, ma magari Armenia, Azerbaijan, Liechtenstein e Malta si giocheranno un accesso all'europeo che altrimenti non avrebbero conquistato, quindi c'è anche quella componente sportiva non secondaria, dare spazio a qualche piccola che viene dalla Serie D e dalla Serie C. Infatti, questo tra l'altro è anche un criterio politico, perché poi questi stati votano, no, in sede UEFA, quindi è bene dargli spazio, perché poi hai visto mai che giusto. C'è un criterio politico dietro questo, perché naturalmente ci sono soldi, ci sono accessi alle fasi finali, ci sono concessioni di sedi, cioè Platini sta dividendo e imperando, direi in Europa senza rivali e con discreta facilità dall'alto del suo ruolo, anche della sua, come dire, vivacità, perché comunque non si è fermato un momento da quando è stato eletto nel 2007 con idee, proposte, cambi, rinnovamenti. È sul fronte mondiale che Platini c'è un osso duro, c'è un osso duro in quel Blatter che insomma conosciamo bene, che cagnaccio calcisticamente parlando sia. Beh, un'ultima o forse penultima, vediamo, riflessione, Fabio Licari, di fatto spariscono le amichevoli e, come sottolineavi tu all'inizio della nostra chiacchierata, cambia totalmente il contesto psicologico per i giocatori e per i tecnici. credo che in qualche modo a prima vista un impoverimento, no? Perché tutti i giocatori saranno chiamati a giocare per i tre punti, il che non è detto che se aumenterà probabilmente lo spettacolo per gli spettatori e per le TV, aumenti però anche la qualità del calcio che vedremo, perché non perdiamo quella quota di spensieratezza del campione che magari, sì, cerca la tripla rovesciata proprio perché gioca contro il Liechtenstein in amichevole. Realista, cioè in teoria sì, perché nell'amichevole in teoria potresti fare quello che vuoi, però io non è che abbia in mente negli ultimi 5-6 anni, insomma negli anni televisivi del calcio più televisivo, queste grandi amichevoli. Io mi ricordo da ragazzino, da bambino, che ogni tanto si giocava molto meno, le nazionali magari giocavano 4 partite all'anno. Io ricordo, per fare un esempio, un'Italia-Argentina giocata a Zurigo, un'amichevole negli anni 80, che sembrava la partita più bella mai vista, perché veramente grande Vialli. Esattamente, se lo ricordi anche tu, magari alla mia età, 11 contro 11, che sembrava una finale del campionato del mondo. Quelle amichevoli non esistono più, perché si giocavano le 30 partite di campionato, 4 di Coppa Campioni, 6 di Coppa Campioni e quelle 3 amichevoli, qui si dava tutto. Oggi che si gioca un sabato sì e una domenica pure, quello spirito è venuto un po' a mancare. Quindi io nelle amichevoli non ho visto questa voglia, se non la voglia dei club di avere il giocatore un minuto prima, di fargli giocare 70 minuti invece di 90, di risparmiare il ginocchio, perché quello che accadrà è che psicologicamente saranno più sotto pressione, perché il CT di turno, che può giustificare una sconfitta in amichevole, farà un po' più fatica a giustificare la sconfitta in Nations League come lo fa nella Confederations Cup, che alla fine la Confederations Cup non è che significhi tanto, però se perdi ti rompono le scatole, siamo onesti. E questo accadrà anche nella Nations League, ci sarà più tensione, qualche infortunio in più, qualche partita in più davanti alla TV. Arrendiamoci al cammino che ci riserva il futuro del calcio, degli sport in genere di successo, sport da TV, sport da diritti, sport da soldi, questo è. Altri tempi, caro Fabio, quando ci ospitavamo le amichevoli tipo Italia resto del mondo con la differita nella partita, nella città dove si giocava la partita, no? Perché altrimenti, se mi permetti, erano partite vere. Io ricordo Italia resto del mondo del 78, dopo Argentina 78, ricordo Boni e Platini e altri che sembravano dover vincere una finale di Champions League e non un'amichevole. Questo non accade più, non è più così. Altri tempi, e direi che insomma, allora, caro Fabio Licari, grazie per essere stato nostro ospite. Ho idea che su questa Nations League tornerai a scrivere a breve sulle pagine della Gazzetta dello Sport, quantomeno per rispiegare tutto il meccanismo. Penso proprio di sì. A bordo campo. Sport e nutrizione, parliamo di questo tema importante, centrale oggi qui a Radio 24 e a bordo campo, e lo facciamo con un vero guru del tema, uno scienziato, uno studioso, un nutrizionista che ha scandito tappe importanti dello sport italiano e che continua a scriverle tutt'oggi, perché è recentissima la sua entrata nello staff dell'Inter in collaborazione con il professor Volpi, un Inter che è pronta a rilanciarsi anche a partire dalla buona e sana alimentazione. E allora, nostro ospite oggi a bordo campo, il professor Enrico Arcelli. Buonasera. Buonasera professore. Beh, Enrico Arcelli, quasi inutile la presentazione, ma in sintesi, classe 1940, milanese, nutrizionista di fama internazionale, ha scandito pagine importanti dello sport italiano e non solo, a partire dalla sua collaborazione con Francesco Moser, l'Ignis Varese del basket, Chelsea, Juventus nel calcio, il Varese di Fascetti che fu un piccolo grande miracolo calcistico, e ora il ritorno nell'Inter. Beh, professore, magari domanda banale, ma un po' d'emozione c'è nel tornare nel grande calcio, no? Ma sì, di sicuro, dopo aver passato tante esperienze in tanti sport, torno nel calcio ad alto livello. Come sta cambiando il rapporto tra alimentazione e calcio professionistico d'alto livello? Ci sono delle conoscenze sul calcio, sulla fisiologia del calcio, che sono abbastanza nuove. Per esempio si vede che nell'ultimo quarto d'ora della partita, ci sono dei dati molto interessanti, l'efficienza dei giocatori peggiora e quindi corrono meno, anche se per esempio il risultato non è ancora definitivo, e segnano però più gol. Allora se si riesce con l'alimentazione a far sì che non ci sia questo calo si è ridotto, è già un fatto importante. Poi ormai si gioca tante volte anche a metà settimana, oltre che alla domenica o al sabato, e anche avere due partite ravvicinate implica alcuni problemi di alimentazione per recuperare più in fretta dopo il primo impegno, e poi tante altre cose. Ecco professore, ci arrivano dagli anni Ottanta ancora racconti epici di allenatori che la notte dovevano inseguire calciatori alla disperata ricerca del frigorifero per riuscire a rubare una fetta di prosciutto in più. Ecco, direi che sono scene ancora consuete nei ritiri anche dei nostri top team, oppure ormai abbiamo voltato pagina? Ma innanzitutto la mia esperienza con i calciatori è che la stragrande maggioranza di loro ha una serietà professionale notevolissima, e quindi non esiste più chi per esempio dopo un mese di vacanze mette su vari chili di troppo, perché ormai si sanno curare. Beh, c'è qualche eccezione, mi viene in mente il bresciano Sodigna, no? Quel brasiliano che invece anzi dei suoi chili in più ne ha fatti quasi un vanto, un marchio di fabbrica. Sì, non sono casi comuni, sono casi molto rari. Sento qualche nota di biasimo nel suo pur misurato commento. Ecco, professor Arcelli, un'altra epoca che è tramontata è anche quella del mito del calcio anglosassone o tedesco, che andava avanti a fish and chips, patatine e cibi particolarmente grassi, no? Direi che anche a quelle latitudini ormai, forse anche per merito dei tanti tecnici italiani che con i loro staff sono sbarcati in quei campionati, direi che la musica a tavola è cambiata parecchio. Ma sì, di sicuro. Ormai grosso modo alcuni hanno capito che bisogna mangiare sano per essere atleti, per cui errori grossolani non se ne fanno più o quasi più. Certo, ci sono ancora certe pubblicità per televisione a cui credono ancora alcuni giocatori e si adattano a queste pubblicità, ma nella maggior parte dei casi non fanno errori molto clamorosi. Si può comunque migliorare ancora qualcosa. Quali sono i punti ancora migliorabili su un canovaccio che appare per alcuni aspetti già definito, ma su cosa anche in particolare si concentrerà il suo lavoro quest'anno? Ma innanzitutto ci sono dei tipi di alimentazione che riducono il rischio di infortuni. Gli infortuni hanno tanti fattori che li fanno aumentare, e tra questi c'è anche l'alimentazione, per cui l'alimentazione può avere un ruolo nel ridurre. Io ho seguito anche alcuni calciatori di un certo livello, ricordo un brasiliano che si infortunava tanto, e grazie ai cambiamenti nell'alimentazione non è riuscito a fare 13 partite di fila senza infortunarsi, poi si è infortunato per uno scontro di gioco, mentre prima ne faceva 4 come massimo e poi aveva un infortunio muscolare o tendineo o qualcosa del genere. Ecco, quali sono i cardini dell'alimentazione del buon calciatore professionista? Ecco, ci provi un po' a sintetizzarci una dieta giornaliera, se è possibile. Ma il dietologo deve essere, io sono dietologo, non nutrizionista, cioè sono un medico che ha preso la specialità in dietologia. Il dietologo deve confezionare l'alimentazione sul singolo giocatore, non esiste una dieta che va bene per tutti. Certo, esistono alcune regole generali, magari che anche i nonni ci insegnavano, per esempio l'importanza della verdura, l'importanza della frutta, no? Queste sono regole che valgono per tutti, ma poi negli ultimi anni ci si è resi conto di quanto sono importanti per esempio gli omega 3 per la lucidità mentale, per i tempi di reazione, sono acidi grassi essenziali che si trovano nel pesce e che migliorano l'efficienza del cervello. Poi parlavo di frutta e di verdura, ma anche l'olio extravergine d'oliva contengono, o il tè verde, contengono queste sostanze che si chiamano polifenoli, e fra i polifenoli ce ne sono alcuni migliori degli altri, per esempio il macchi, che è una specie di mirtillo, ha un contenuto di certi polifenoli che sono straordinariamente efficaci, e anche questi aiutano da un lato a ridurre il rischio di infortuni e dall'altro lato anche a migliorare un pochino la resistenza. Quindi con tanti piccoli particolari, con tante piccole novità, è ovvio che bisogna leggere tutta la letteratura scientifica che esce sull'argomento, gradino dopo gradino si riesce a fare qualcosa di utile utilizzando i cibi oppure i derivati dai cibi, quali sono gli integratori. Ecco, ricordavamo all'inizio della nostra chiacchierata solo alcune delle tante tappe della storia del nostro sport che lei ha attraversato, professor Arcelli. Ecco, dagli altri sport quali sono le lezioni che in modo più significativo possono influenzare appunto la sua esperienza nel calcio? Cosa ha tratto e quali sono gli episodi chiave che le tornano utili nel progettare questa nuova sfida? Sai, ogni sport ha le sue caratteristiche e quindi le sue necessità, ma per dire, ho seguito fino a pochi anni fa una squadra professionistica di ciclismo, e nel ciclismo, pensiamo alle corse a tappe, c'è la necessità, finita la tappa, di scegliere gli alimenti che fanno recuperare in fretta dai vari tipi di fatica. Ecco, questa necessità di recuperare in fretta dai vari tipi di fatica, scegliendo bene gli alimenti, è molto molto importante, come dicevo prima, nel calcio, soprattutto quando ci sono vari incontri ravvicinati e poi quando ci si vuole allenare bene senza correre rischi. Qual è stato il campione nella sua carriera, professor Arcelli, più difficile da marcare a tavola nel calcio e non solo? Ma al suo tempo era stato Tomba all'inizio. Alberto Tomba mangiava molto disordinato, faceva un po' il contrario di tutto quello che un atleta dovrebbe fare, però devo dire che è stato un allievo perfetto, ha imparato veramente bene e anche quando per esempio durante l'estate non lo vedevo per vari mesi, quando tornava lo rivedevo perché si avvicinava al periodo delle gare, aveva ancora delle percentuali di grasso molto molto basse, a testimoniare che si alimentava bene, non aveva dimenticato quanto gli era stato insegnato. Aveva paura delle sue ramanzine, insomma, professore? Ma non lo so, quello non lo so, credo che volesse vincere, perché era veramente uno di quegli atleti con una grandissima voglia di vincere, che è poi una delle cose più importanti nello sport, la voglia di vincere. Insomma, diciamo che la fame che è concessa è sicuramente quella di vittoria. A proposito, mi ha molto colpito in queste settimane vedere le foto di un pranzo di Ryan Lochte, no? Il grande campione del nuoto americano, che solamente in un pasto arrivava a consumare intorno alle 12.000 calorie. Sì, è una balla. Ah, ecco, balla, ecco, ci rassicuri come... perché... Sì, sì, e ogni tanto vengono fuori queste cose, e succede anche che vengono pubblicate, ovviamente i giornalisti non possono conoscere la dietologia, per cui ci cascano, ma credo che questo Lochner abbia riso molto alle spalle di chi ha pubblicato quella notizia. Beh, professore, allora io intanto la ringrazio sia per la piacevolezza della chiacchierata, sia anche per averci aiutato a smascherare qualcuna di queste balle dietologiche, no? Diciamo così. Grazie a voi. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it, anche in podcast, dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend. A Bordo Campo torna come sempre domenica prossima alle 16.30 e in replica il sabato mattina alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.